Although Florence is not a big city, it's stifled by air pollution. E perché? Ascolti Lorenzo e il prossimo dialogo, ma prima le parole e le espressioni nuove. Come al solito, cominciamo. Motorini. Scooters. Motorini. Dappertutto. Everywhere. Dappertutto. Il comune. The city council. Il comune. Ha deciso. Has decided. Ha deciso. Fermare. To stop. Fermare. Limitare. To limit. Limitare. Una domenica al mese. One Sunday a month. Una domenica al mese. Ed ora ascolti di nuovo tutte le parole e le espressioni nuove. Dappertutto. Il comune. Fermare. Limitare. Ha deciso. Motorini. Una domenica al mese. E questo è il dialogo. È colpa del traffico. Ci sono troppe macchine, motorini, scooters in città. Oh yeah, they're everywhere. Sì, sono dappertutto e fanno molto rumore. Oh, it's so peaceful, senza macchine e motorini. Il comune di Firenze, the city council, ha deciso di fermare il traffico una domenica al mese per limitare l'inquinamento.